choix. C'est le murmure de l'eau qui chante. C'est le murmure de C'est le murmure de l'eau qui chante. C'est le murmure de l'eau qui chante. C'est le murmure de faire le tour de la maison. Ça me fait beaucoup de bien. Louise Bourgeois est née à Paris le 25 décembre 1911. Her work has moved a century on. Louise Bourgeois, now in her mid-70s, is among the most notable and increasingly among the most visible of American sculptors. Tutta l'attività di Louise Bourgeois, l'artista che è diventata negli ultimi anni il simbolo dell'arte moderna. This tiny woman, nearly a century old, is one of the giants of modern art. Louise Bourgeois devient une référence pour les jeunes générations d'artistes. Das sagt die Bildhauerin Louise Bourgeois über sich selbst, die heute 96 Nos ha dejado Louise Bourgeois, la artista francesa que durante décadas ha reflexionado con dolorosa. Una delle più grandi. Louise Bourgeois' career as an artist defines. Fucking incredible. There is a cunt made out of two pricks. La sexualidad, el feminismo y el mito del faro. Las obras de esta pequeña y gigante artista se pueden ver en los museos más famosos y en las mejores colecciones. ¿Qué voulez-vous? Dehors. Hors d'ici. ¿Qué volete? Andatevene via. C'est quoi ce bordel? Ceci un atelier. Mon atelier. Je dois travailler, compris? Je ne veux voir personne. Je ne veux personne entre les pattes. Devo lavorare. Non voglio gente tra i piedi. En plus, aujourd'hui, je suis furieuse. Pourquoi? It's none of your business. Oggi sono furiosa e il perché non sono affari vostri. You are so curious, aren't you? Do I come into your house? Do I come to ask any question? What's that teapot? How many cups of tea do you drink? And those towels in the bathroom, why aren't they in set? Vengo forse a casa vostra a farvi un sacco di domande sulla vostra teiera e sui vostri asciugamani? I know you are not famous. I'm fed up. I worked for 40 years without anybody taking care about me. I did what I wanted. I said what I wanted, with my job. Ho lavorato per 40 anni senza essere famosa e senza che nessuno si occupasse di me. I didn't sell, I didn't show anything. I was free. Freedom! Market is the death of art. Non ho venduto e non ho esposto nulla, ma ero libera. Il mercato è la morte dell'arte. I know that every artist wants to be famous. I hate the egocentrism of the artist. I hate my egocentrism. I hate artists! Odio l'egocentrismo degli artisti. Odio il mio egocentrismo. Odio gli artisti. Well, it's not true. I love artists. A world without artists. What kind of world would be? Non è vero, amo gli artisti. Un mondo senza artisti, che mondo sarebbe? But I can't stand them! Ma non posso soffrirli. E vabbè, però si decida, eh? What's that? Is that a camera? I don't want cameras here. I don't like to be shooted. I'm not an actress, I don't like my image. Well, it's not I don't like, but I don't care. It's not what there is inside of me. C'est-à-dire, je ne suis pas lui. Je suis un lui bien plus complexe. Voilà. Momento, momento, mi faccia tradurre. Che me l'ha fatto fare a me di venire stasera qui? Dice che non le piacciono le telecamere, che non le piace la sua immagine, che però non è vero le piace, ma preferisce quello che c'è dentro, perché lei è complicata. Avanti. Continui. A troupe was here. They asked a lot of questions. They made a movie. About me. Who asked them? I'm not an actress and have nothing to say. Vabbè, vabbè, l'ha già detto ste cose. Non è un'attrice, non le piace la sua immagine, hanno fatto un film su di lei, non le è piaciuto. My job speaks for me. Artists, they are big mouths. They speak, speak. Their operas must speak. And then I do not trust words. Words can lie. They lie. Always. Non ha niente da dire, devono parlare le opere, gli artisti parlano troppo, senti chi parla. I want to work peacefully. I want people know me through my job. Because if they know my operas, they must love me. I don't know, maybe it sounds bad, but it's true. That's it. Vabbè, ora sta dicendo che vuole essere amata e che se la gente conosce le sue opere non può fare a meno di amarla. Ma... Now go away. I go back to my work. If you want an interview, talk to my agent. You. Translate. La traduzione. Un momento, c'è qualcosa che non mi torna. What is she talking about? Louise Bourgeois non era morta. Come fa ad essere qui? Che schilia! Louise Bourgeois è morta. You are dead. Compris. Mort? Je suis mort? Yes, you are dead. Morta. The renowned Louise Bourgeois passed away on Monday, May 31st, at the ripe age of 98. È morta oggi a New York Louise Bourgeois, una delle massime rappresentanti dell'arte contemporanea. La scultrice, che aveva quasi 100 anni, era nata... Modern definì l'opera di Louise Bourgeois. La scultura francese, nascita in Paris e radicata negli Stati Uniti, morreu oggi in Nova York. Aujourd'hui, Louise Bourgeois è morta. Louise Bourgeois è tot. Die große Bildhauerin ist gestern mit 98 Jahren... Sono proprio morta. Allora è vero. Ma allora è tutto diverso. Beh, meglio così. Sì, vuol dire che sono libera. Che non devo portarmi più in giro questa immagine che non mi appartiene. Louise Bourgeois. Qui. È qui. È qui. Una lotta. È sempre stata una lotta. Con la mia immagine, con il mio corpo e anche con i materiali, ma una lotta necessaria. Perché la resistenza del materiale è parte del processo. La resistenza del marmo, del ferro. Se non ci fosse stata resistenza, come avrei potuto esprimermi? Solo con la lotta disperata. Questo mi ha tenuta in vita tanti anni. Quanti? 98 e mezzo. Eh sì, siccome sono nata a Parigi nel 1911. Il giorno di Natale, rovinando la festa a tutti quanti. Un segno. Nasco mentre tutti mangiano ostriche e bevono champagne. Non è delizioso? O aberrante? Forse tutte e due. Comunque io nasco, in casa ovviamente, e nessuno si cura di me. Tornano tutti a bere e a mangiare, tranne mia madre. Ridicolo. No, no, non accuso nessuno, no, no. È solo una sconfitta, già col primo giorno. Ma di questo si nutre il mio lavoro, della sconfitta e della paura. Paura dell'abbandono. La paura può essere repressa come l'eccitazione, oppure può essere scovata come le pepite d'oro sottoterra. Trova le tue pepite, tirale fuori, disseppelliscile e fanne buon uso. La paura può essere molto utile. La paura fa girare il mondo. E anche grazie a lei, se io sono esattamente ciò che volevo essere. Una scultrice. Una scultrice americana. Sì, sì, sono una donna francese, ma sono un'artista americana. La mia spinta viene dalla Francia, dove ho vissuto fino a 27 anni. Sì, sì, sì, sì, la mia spinta viene da lì nel bene e nel male. Ma la realizzazione viene da New York. È normale che sia così. Il nutrimento di un artista viene da quello che vede, da ciò che vive. Ah, in Francia non sarei mai stata una scultrice, ma New York. Lì i marciapiedi sono pieni di tutto. Umanità, cose, tante cose. New York trabocca di oggetti fantastici, di ogni tipo. Reti, materassi, letti interi, biciclette, lampade, frullatori, grucce, macchine da scrivere, pentole. Trovi interi appartamenti sui marciapiedi di New York. Puoi guardarli, pensarli mentre prendono di nuovo vita. Un'altra vita, una vita fantastica. Li assembli, no? È una missione di salvataggio. Tu cerchi di salvare quegli oggetti perché sono meravigliosi. E poi a New York sei libera! Puoi essere quello che vuoi! Nessuno ti giudica! Nessuno pretende che tu sia diverso da quello che sei! È una benedizione! Anche essere artisti lo è! Una benedizione! Sì, lo è stato per me! Puoi salvarti! La scultura è un esorcismo. Quando sei davvero depresso e non vedi altra via di uscita che il suicidio, la scultura può salvarti, ricreare dentro di te una specie di armonia. Sì, questa è la sua funzione. Sì, è così. Io senza la scultura non ce l'avrei fatta. Certo, bisogna essere violenti. Essere uno scultore è un atto di violenza. Ci vuole forza. Bisogna piegare la materia, dominarla, bisogna lottare con lei. E la violenza bisogna trovarla dentro di sé. Ah, per me è stato facile. La terribile violenza che ho subita, io l'ho restituita. L'ho fissata nel materiale. Una vendetta su mio padre. Tutto è nato da un incubo. Un incubo ricorrente. Io e i miei fratelli, assieme a mia madre, squartiamo mio padre e lo divoriamo, seduti a tavola. Lo afferriamo, lo trasciniamo sul tavolo, gli strappiamo gambe e braccia cibandoci di lui. Ingoiamo brandelli di carne presi direttamente dal suo corpo. Pezzi interi. Ci ho fatto una scultura. Non è piaciuta a tutti. Non dovevo fare a pezzi il mio genitore. Perché no? Lui ha fatto a pezzi me, perché non posso farlo anch'io? E poi dobbiamo accettare noi stessi, no? La nostra malvagità, i nostri limiti. E io ho accettato l'idea di desiderare di farlo a pezzi. Lui voleva un maschio, ma gli è andata male una prima volta, quando è nata mia sorella. E lei gli ha fatto un gran dispetto perché presto è morta. Anche una seconda volta gli è andata male perché è nata un'altra bambina. E ancora una terza volta perché sono nata io. E allora mio padre ha fatto una cosa che forse non gli ho mai perdonato. Mi ha dato il suo nome, Louise, e ha cercato di crescermi come un maschio. Mi portava al bordello con lui. E io vedevo le prostitute prenderlo sotto braccio e lui scansare via in malo modo quelle che non gli piacevano. Io ero come loro. Nemmeno io gli piacevo. Non gli piaceva niente di me, a cominciare dal mio sesso. A tavola pontificava per sentirsi importante, ci umiliava, ci faceva sentire tutti insignificanti. Il suo umorismo era crudele, nessuno riusciva a ribattere, eravamo raggelati. Io tenevo per me il mio risentimento, non potevo mostrarlo, lasciarlo uscire, mi scoppiava dentro. La rabbia, la frustrazione crescevano di giorno in giorno, perché non avrei dovuto desiderare di farlo a pezzi? Da allora io distruggo tutto, perché sono violenta. Distruggo le mie amicizie, il mio amore, i miei figli. Ma la crudeltà si trova lì, lì, nel mio lavoro, nella vita reale. Io sono la vittima. Nell'arte sono il carnefice. Vivo in un mondo fatto da me. Io decido. Io ho potere. Potere su tutto. Potere di uccidere, tagliare gambe, mani, teste, di volare. Ma vivo lo strazio del carnefice, costretto a convivere con la sua coscienza. Perché lo faccio allora? Perché ho paura. Sono sadica perché ho paura. Paura dell'abbandono. Ho ancora paura. Ho sempre paura. Ma la paura mi nutre. Nutre la mia arte. Perché cerco di vincerla. Io cerco la vittoria sulla paura. Per questo dovevo farlo. Dovevo distruggere mio padre. E l'ho fatto. Con la materia, la scultura. Io ho reso reale il mio sogno. Il mio incubo. Distruzione del padre, 1974. Siamo tutti e quattro lì, io e miei fratelli, mia madre. Il tavolo dove lo divoriamo è anche un letto. Hanno più o meno le stesse dimensioni, sono più o meno la stessa cosa. Il tavolo dove tuo padre ti ha tormentato, il letto dove ti ha concepito. Tutti gli oggetti della scultura sono calche di membra animali. Sono andata al mercato della carne. Ho preso spalle di agnello sanguinanti, cosce di pollo, pezzi di cadaveri. Li ho gettati nel gesso ancora morbido. Li ho immersi. Poi ho rovesciato la forma. L'ho aperta. Ho buttato via la carne e ho colato il latex nello stampo. L'ho fatto in casa mia. Questo atto contro chi amo di più, da chi ho desiderato essere amata, compresa, accettata. La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum, quand notre cœur fait boum. Non tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'est abandonnare. Au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout, non mi abbandonnare. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Mi abbandonare. Non mi abbandonare. Non mi abbandonare. Non mi abbandonare. Tout avec lui dit boum. Non mi abbandonare. Le vent dans les bois fait. La bicheuse à bois fait. Non mi abbandonare. Et les pieds mouillés font clic, clic, clac, mais boum. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. L'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de... La mia infanzia non ha mai perso la sua magia. Non ha mai perso il suo mistero. E non ha mai perso il suo dramma. Devi raccontare la tua storia e devi dimenticarla. Dimentica e perdona. Ti libererà. Dimentica. Devi raccontare la tua storia. Dimentica e devi dimenticarla. E perdona. Ti libererà. Sono prigioniera dei ricordi. Devo liberarmene. La piccola Louise. Una grande casa. Decine di stanze. Il fiume Bièvre. Ogni nostra casa era vicina a un fiume. era necessario. Vi tingevano le lane che si usavano in casa per riparare gli arazzi. Arazzi enormi, antichi. Li usavamo per nasconderci, io e i miei fratelli. Arazzi come pareti, come labirinti di tessuto. La trama fitta, odore di lana, di tinture, di sole. I miei primi ricordi. Mosè salvato dalle acque. Una scena sacra. E poi una scena di ninfe, puttini, pastori, alberi. Comunque, arazzi. Rimanevo a guardarli per ore incantata. E mia madre, come un ragno laborioso, seduta a tessere, riparare quelle trame sfondate, quei fili spezzati. Mia madre, la sua voce forte, sicura, il suo viso fermo, immobile, il suo silenzio, che era un grido di dolore, i suoi occhi profondi, che sapevano tutto. Qui, piccola Louise, vieni vicino, vicino a me, stammi vicino. Io e mia madre, insieme, alleate a sostenerci a vicenda. Quella donna, Sadie, assunta come insegnante d'inglese. Oh, sì, è stata molto utile. Su questo sono d'accordo. D'accordo con te, papà. Mi ha insegnato l'inglese in 10 anni che è rimasta con noi. Con te. Ci seguiva ovunque, in gita, in vacanza. Là, facciamo una foto, eh? Una foto con la piccola Louise. Il vestitino della festa, il viso pallido, i grandi occhi, lo sguardo triste. E accanto a lei, una donna. La tua amante, papà. La famiglia può essere disseminata di ghigliottine. Ora sono tornata. La casa non c'è più. L'hanno demolita. Il fiume è scomparso, inghiottito da una strada. Tutto è sepolto. Eppure, ancora così vivo dentro di me, fa ancora male. E così, un giorno, l'ho scolpita. Sel, Choisy 1990-1993. La casa, la nostra casa, identica a com'era. Decine di finestre in file geometriche, il tetto con i camini. L'ho fissata nel marmo, marmo bianco, candido, incorrotto. 3 metri, 32 centimetri, 3 millimetri. 3 metri, 68 centimetri, 3 millimetri. 3 metri, 4 centimetri, 8 millimetri. E dentro c'è tutto, tutto ciò che ricordo. Il dolore, la paura. Il buio, l'uomo dei maiali in cucina che bacia la serva, le corse su e giù per le scale, il cuore che batte di notte nel letto mentre sento mio padre raggiungere quella donna nella sua stanza, gli arazzi appesi nelle grandi sale con i loro fauni, gli dèi, i pastorelli, le giovani vergini, le tigri, gli aironi, i daini, gli ulivi, le rose, i gigli, testimoni di tutto. Quegli arazzi su cui lavorava sempre, senza mai stancarsi, mia madre. E sospesa sopra la casa di marmo ho messo una ghigliottina pronta a calare, spezzare, distruggere il ricordo. Il presente si sbarazza del passato. Ogni giorno il presente sconfigge ciò che è stato. E questo è il mio scopo. Dimenticare, sradicare dentro di me quei ricordi. Ricostruire il passato, rifletterci, pensarlo come una forma concreta. E poi sbarazzarmene. Con la scultura. Solo dopo tutto questo riesco a dimenticarlo. Oh, saldato il mio debito. Provo ad andare avanti. Mm-hmm. falli. Falli? Faccio cose. Le scolpisco. Cose diverse. La gente vede falli. Curioso. Anche molte vulve, vagine. Ma vedono soprattutto falli. Ho provato a chiamare una mia scultura Fiat 1968. Fiat. E un petit fille. Una bambina. Hanno visto un fallo. Va bene, lo ammetto. Sembrava un fallo. Lo sembra. Lo è quasi. Lo è anche. Lo è e non lo è. Quello lì della foto, la foto famosa. Quella di... quel fotografo, come si chiama? Mapplethorpe. Io che sorrido con questo fallo... cioè con questa mia scultura sotto braccio. Fiat, appunto. Me la sono portata dietro quando lui mi ha chiesto di andare nel suo studio. Ah, lui è un fotografo veramente molto famoso, uno dei più grandi, eh? Di solito lui fotografa falli neri, di neri, modelli neri, uomini neri, enormi. I modelli, anche i falli, gli piacciono proprio. Perché vorrà fotografare me, ho pensato. Non volevo deluderlo, ecco. Questo non lo volevo. Non lo volevo proprio, non mi piace deludere la gente. Sarà un caso che gli ho portato un fallo? Ma no, non un fallo qualunque. Il mio, la mia Fillette, la mia piccola Louise. Per stare più tranquilla. Mi agitano sempre le foto. Fare le foto, farmi fare le foto. Io non sono un'attrice, non mi piace la mia immagine, sono le mie opere che devono parlare per me. Ecco, comunque dovevo andarci. In fondo volevo diventarlo anche io. Famosa. Sì, lo so, non lo ammetto di solito. Non lo ammetto e sto male, logicamente. Ma è la verità. Voglio avere successo. Il che poi significa avvicinarsi a quello che vuoi dire veramente. Voglio essere riconosciuta, stimata, non solo, voglio essere bella, simpatica, voglio avere gente a cena, non solo, voglio essere una brava madre, una brava moglie. È difficile, eh? Soprattutto io voglio essere una brava scultrice. No, no, no. Io soprattutto voglio essere amata. Ecco, sì, amata. Come tutti. Forse. Un po' di più. Ma com'è che divago sempre? E dire che detesto parlare di me. Strano, no? Comunque, sarà un disastro, ho pensato, la foto. Però volevo farla, va bene. Andiamo, facciamola questa foto, ma tanto sarà un disastro. Gli uomini sono così difficili. Capricciosi, insicuri, permalosi, si offendono. Capiscono sempre il contrario. Devi prenderti ogni volta cura di loro. I grandi fotografi? Anche peggio. Sono arrivata lì, nel suo studio. Lui, zitto. Convenevoli, lui, zitto. Mi sono messa davanti al fondale sotto le luci, lui, zitto. Mi sono infilata la mia figlietta sotto il braccio e ho sorriso. E così è nata la foto. A cosa pensavo? Ai neri, ai suoi modelli neri, mi facevano ridere. No. Anche un'altra cosa pensavo. Che cosa avrebbe detto la gente di me? Una donna, una vecchia di 70 anni con un enorme cazzo sotto il braccio. E c'era da ridere, no? Oh, il mio primo fallo. Il mio primo fallo. Beh, no, no, non il primo che ho visto. Il primo che mi ha fatto capire qualcosa, che mi ha aperto un mondo. Dunque, ero a scuola, all'École des Beaux-Arts a Parigi, durante una lezione. C'era un modello, un ragazzo molto bello, posava nudo per noi. A un tratto, ebbe un'erezione. E così, improvvisamente, come capita con l'età, immediata, estemporanea, clamorosa. Tutti scoppiarono a ridere. E lui era imbarazzato, ferito. Era così fragile. Provai una pena per lui e capii. Sì, io quel giorno scoprii che anche gli uomini possono essere vulnerabili, possono essere femmine in qualche modo. Beh, tutti noi siamo un po' maschi e un po' femmine. Ora che ci penso, in casa nostra, mia madre era l'addetta ai falli. Sì, sì, lei era incaricata di rimuoverli tagliandoli con delle piccole forbici, ma non li gettava via, no, no, li teneva e li metteva tutti da parte in un piccolo cesto dove poi... I falli degli arazzi. Eh sì, perché c'erano i compratori americani, no? puritani, ovviamente, che erano terribilmente infastiditi dai peni di quegli angioletti, dei cupido con gli archetti e le frecce. E così toccava a mia madre evirarli. Un'operazione chirurgica in piena regola. E siccome mia madre era una donna molto ordinata, metteva tutti questi piccoli peni, questi deliziosi pisellini, dentro un cesto. Avevamo dunque a casa un cesto pieno di peni. Curioso, no? Non credo che sia qualcosa che succede in tutte le famiglie. No, no, decisamente. Comunque, anche in seguito la mia casa è sempre stata piena di falli. Dunque, eravamo in cinque, io, mio marito e i miei tre figli. In tutto, quattro falli. Come madre e moglie li ho dovuti accudire, in un modo o nell'altro. Non che non mi facciano lo stesso paura, in un modo o nell'altro, ma insomma, quelli lì erano diventati oggetti familiari. Ecco. In ogni caso, tutto questo interessamento attorno a quest'organo mi sembra, francamente, eccessivo. Decisamente. E allora, perché ne stiamo tanto a parlare? 13 ottobre 1997. Sono ritenuta responsabile del mio talento. Il mio cibo è un dono. La mia marmellata e il mio tè sono un dono. La mia salute, il mio umore, oggi sorridente. Il sole che entra nella stanza è un dono. La telefonata del mio amico è un dono. La soddisfazione di aver fatto il mio dovere, averlo fatto, è un dono. La mia camicetta azzurro cielo è pulita ed è un dono. Specialmente il tempo che fa fuori è un dono. E il forno è un dono. Lo stato del mio stomaco è un dono del cielo. La presenza dei miei cari. Sii pronta a pagare per i tuoi doni nell'arte. Sii pronta a pagare per i tuoi debiti nell'arte. Stai sacrificando la tua libertà per l'arte. I ragni tessono la loro tela. Ragni laboriosi, veloci, acrobatici, geometrie elaborate, perfette, impalpabili, resistenti, architetture ardite, trappole, sì, a volte, ma sublimi, labirinti di linee sottili in cui perdersi affascinati, con cui confrontarsi e uscirne sempre sconfitti, perché niente sarà mai più perfetto di questo, niente più bello, più giusto. Ragni di saggezza, un sapere antico posseduto a tal punto che diviene nulla e resta solo l'istinto. Ragni tenaci, caparbi. Se un temporale, un gesto violento distrugge la tela, la ricompongono senza esitazioni, senza sbagliare, senza stancarsi. Ragni discreti, che non chiedono nulla, che aspettano, pazienti, che restano immobili fino quasi a sparire contro il bianco del cielo. Ragni buoni che proteggono. Catturano mosche, zanzare, in silenzio le avvolgono, le incantano. Ragni delicati, che sono loro stessi fragile struttura, ragni preziosi, vulnerabili, ragni indispensabili. Ragni, come mia madre. Maman, 1999. Senza di te la vita appare insopportabile. L'ho rifiutata. Ho cercato la morte in un fiume, ma la morte ha rifiutato me. Mi ha spinta indietro, mi ha ributtata sulla riva, mi ha condannata a un'esistenza senza di te. E allora io torno indietro nel tempo, a quando dormivo con la testa sulle tue gambe mentre cucivi, riparavi le tele anche tu, le trame delle nostre vite, quando in silenzio ti osservavo scegliere le lane, i colori, e osservavo le tue lunghe dita snodate sfiorare, battere, accarezzare milioni di fili. Aspettami! Presto io arrivo da te! Ho bisogno di te! Nel frattempo ti dedico un'iperbole, mamma! Una figura di zampe lunghissime, alte metri e metri! Una figura di ragno, di bronzo! Che pesa quintali, che sorregge universi, ma che posa su sottili punte di spillo, perché è leggera e potente. perché è come te. E l'ho pensata là fuori, in mezzo alla gente, là fuori dove sei più necessaria, dove il bronzo annodato delle tue zampe brilla lucido sotto i raggi del sole e ci si può avvicinare. Non scappa, non scappi! E non sono gelosa, non più. Ti regalo a tutti, mamma, perché tutti comprendi, sovrasti, accogli. Proteggi chiunque adesso, adesso e per sempre. Oppure, no, solo per un attimo, un momento, il tempo di una camminata, e il tempo di un passaggio, di qualche secondo di ombra che rinfresca. Ma sei là, là fuori, e noi siamo piccoli, di nuovo piccoli, accanto a te. Le mie emozioni, la loro intensità mi sconvolge. Le emozioni sono i miei demoni, per questo io realizzo esorcismi. La mia lotta, usarle, non lasciarmi spezzare, portarle fuori da me, scagliarle contro una forma informe, contro un blocco di marmo, perché incidano, taglino, sezionino, distruggano, creino. Mani tagliate, corpi senza testa, ossa vestite di stracci, spirali, sfere perfette e fragili, donne imprigionate in case calzate come vestiti, parti meccaniche, totem, membra attraversate da spasmi, ampolle, specchi, grate, celle, fantocci, materie, colori. Tutto nasce da lì, dalle emozioni. Articulated Liar 1986. Ho bisogno di una tana. Una tana. Ne costruivo sottoterra da bambina. Una tana. È necessaria per nascondermi quando sto per cadere in trappola. Una tana dove fermarmi, dove trovare rifugio. Una tana. Ne ho ancora bisogno. E così l'ho costruita. Una tana dove essere libera, libera di nascondermi. Una tana per chi non ha strategie, una tana di pannelli. 47 pannelli verticali, ognuno a 3 cardini. Il primo pannello è legato all'ultimo, una forma chiusa, flessibile. Se il cerchio non fosse chiuso, i pannelli crollerebbero uno dopo l'altro come tessere di un domino, e invece si sostengono a vicenda. L'energia corre instancabile da uno all'altro, gira come in un vortice e li sorregge. È un luogo che ti protegge, ti difende e ti permette di fuggire. Fuggire, se necessario. È curioso. La vita ti segue ovunque, anche se cerchi di fuggirla, anche se ti nascondi. La vita ti mette alla prova, spesso ti annienta, ti mette di fronte ai tuoi limiti. Eppure ci siamo così aggrappati, così disperatamente aggrappati. Sono nata il giorno di Natale del 1911 mentre i miei mangiavano ostriche e bevevano champagne. E dopo 98 anni e 160 giorni sono ancora a domandarmi: perché? Perché il dolore? Perché la rabbia? Perché l'angoscia? Perché la gioia? Perché l'amore? Perché? Ho lavorato tanto, come un'ape operosa, eppure non sono approdata a niente. Non ho trovato nemmeno una risposta. O forse Sì, una sola, un'unica certezza, che ho amato il mio cammino, ho amato il mio viaggio. Qual era la meta? Non lo ricordo più, ma non ha più importanza.